Allora, si parte, nuova edizione 2025 Bologna Jazz Festival. Siamo con un polifunzionale Francesco Bettini in questa edizione. È vero. Io ovviamente sottolineo l'aspetto di direzione artistica e a questo punto ti lascio la parola per tutti questi cambiamenti. Direttore e presidente, pensiamo da quest'anno sostanzialmente. Ma vi racconto questa bella edizione, certo, è la 20ª, anche se poi una edizione, quella del periodo della pandemia, ricordo abbiamo fatto un concerto e poi chiusa. Esatto. Quindi in realtà è la 19, qualcosa. Lo schema è quello di una grande kermesse di oltre un mese che si svilupperà prevalentemente sul territorio di Bologna e la città metropolitana, con anche i satelliti gemellati che sono il Festival Jazz di Forlì e soprattutto il Jazz Club di Ferrara, la stagione Ferrara in Jazz, che è partner storico del Bologna Jazz Festival sin dagli albori, con concerti nelle grandi venue dei teatri, ma anche tantissima attività concertistica negli spazi che normalmente producono musica all'interno della città di Bologna, dando proprio continuità alle loro programmazioni, talvolta producendo noi direttamente, altre volte invece ospitando le produzioni, questa lunga schiera di partner che vanno dal Camera Jazz and Music Club, al Bravo Caffè, alla Cantina Ventivoglio, allo Sghetto Club, al Binario 69, Locomotive, oltre a tutti questi partner, collaborazioni con il Museo Internazionale Biblioteca della Musica. E aggiungo anche io, entrando così, che c'è l'aspetto di mantenere la personalità di ogni locale con attinenza di continuità, pur essendo vicino al Bologna Jazz Festival. Non so, Locomotive, Binario 69 manterranno le loro peculiarità pur essendo all'interno di quello che è il filo conduttore del jazz. Assolutamente, l'idea è proprio di valorizzare e non di snaturare quelle che sono le linee artistiche dei partner. Oltre a tutto ciò, progetto estremamente articolato sia dal punto di vista della divulgazione che dal punto di vista della forma. Questo è il cosiddetto progetto didattico divulgativo, prevederà dei talk all'interno del MUST, altro partner importantissimo, sì, anche per i concerti e non solo, diciamo, per le presentazioni di saggi musicologici, proiezioni di film, uno al Torino a Ferrara e uno al Museo Internazionale Biblioteca della Musica, a tema jazzistico dei documentari, altro molto recenti, presentati di recente anche a Torino Jazz Festival, quindi sono opere estremamente attuali, una serie di workshop e di residenza artistica. Più rilevante è quella che facciamo in collaborazione con il Conservatorio e il Liceo Musicale, e che prevede la presenza in città per una settimana di un grande interprete vocale che è Maria Pia De Vito, è bravissima didatta. Lei seguirà delle combo del Liceo Musicale e del Conservatorio per produrre uno spettacolo originale al Camera Jazz and Music Club. Sarà ospite per un progetto originale della Martini Big Band, arrangiamenti di Michele Corcelli e le musiche di Gianni Mitchell. Ulteriore workshop, in questo caso di un giorno, sarà un incontro pomeridiano con uno degli artisti dei club più importanti, che è Tim Byrne, a cui seguirà il concerto Lo Sghetto e si svilupperà Lo Sghetto. Faremo una serie di incontri al Binario 69, che è un altro importante presidio della Bolognina, sociale e culturale, e questo ha proprio a che vedere anche con la posizione e la strategia sia del locale che del luogo, perché è un laboratorio di Guglielmo Pagnozzi, bravissimo didatta e clarinettista, e sassofonista, e si chiama Laboratorio Sociale Afrobeat. C'è un momento in cui anche i musicisti professionisti possono, diciamo, partecipare alla creazione di quello che poi sarà l'apertura delle jam session che il Binario normalmente fa il mercoledì sera. Passiamo ai concerti definiti così, i 4 o i 5 che sono incentrati. Ma in realtà, diciamo, le produzioni teatrali sono più rilevanti anche per i numeri che si fanno. Certo. Questo non significa che la qualità che ospitiamo all'interno della programmazione, all'interno dei club, sia, diciamo, una diminuzione. Ecco. Grandi interpreti internazionali come la Didi Bridgewater, e con un gruppo tutto al femminile che si chiama We Exist. Quindi da We Insist. Esatto, da We Insist di Max Roach, traslitterato, diciamo, in chiave di valorizzazione delle figure femminili nell'ambito della musica jazz, che è musica che storicamente è stata, diciamo, attrazione maschile, ma che nell'ultimo periodo ha prodotto tantissime artiste estremamente rilevanti. Un grande del drumming jazz mondiale, vivente in attività, uno dei capi scuola della batteria jazz come Billy Cobham. Un altro più giovane artista di musica più sperimentali, sempre targato comunque agli Stati Uniti, un po' la scena, diciamo, downtown newyorkese, che è Mary Halvorson. E poi si comincia con una produzione che non è del Bologna Jazz Festival, ma è prodotta dal Teatro Comunale di Bologna in collaborazione con il Bologna Jazz Festival, molto importante, che sarà nei prossimi giorni. Progetto sulle musiche da film arrangiate da Vince Mendoza Rosa, che è un grandissimo arrangiatore, importante arrangiatore della storia del jazz e dell'attualità jazzistica, con ospiti Giolovano, Flavio Boltro, e infine un grandissimo musicista, anche lui Latin jazz e di tradizione anche, come Monty Alexander, che fonde gli stilemi della musica latina con quelli del bebop tendenzialmente, o comunque del modern jazz. Perfetto. Per quanto riguarda nuove piazze che possiamo citare, nuove espansioni per quanto riguarda palcoscenici, le città che citavo inizialmente, Forlì, festival gemellato che avviene nel stesso periodo dell'anno, e Ferrara come partner ormai proprio dagli albori, fino agli albori del Modern Jazz Festival, e concerti. Ecco, queste triangolazioni poi sono anche molto utili per generare delle piccole tournée, che significa che alcuni artisti li ingaggiamo per fare più di una data, e ci sono scambi tra Forlì e Ferrara, tra Forlì e Bologna, tra Bologna e Ferrara stesso. Danno la possibilità anche proprio di rendere più sostenibili queste tournée. Io ti ringrazio tanto e buona giornata, Francesco. Grazie, caro.